C'è anche una possibilità per chi paga con carta di credito eventualmente di non farsi rimborsare né col contante né con un altro biglietto, ma di farsi riaccreditare l'importo sulla carta, mi pare, vero? Sì, sì, anzi, bisogna proprio fare in questa maniera. Se si è acquistato online con carta di credito o call center tramite carta, si rimanderà una mail e dopo loro riaccrediteranno sulla carta di credito. Ah, ho capito, quindi se ho acquistato in sostanza in contanti mi rimborsano con il contante o con il bonus, se ho acquistato con la carta il rimborso avviene attraverso il riaccredito sulla carta di credito. Ho letto nel tuo pezzo, Paola, che si sta pensando anche ad un portafoglio elettronico personale per, da utilizzare per la gestione dei bonus. Sì, le ferrovie stanno studiandolo, si tratterà praticamente di una posizione personale del singolo viaggiatore sul sito dove si accumuleranno, diciamo, i bonus ritardo, posto che i bonus sono cumulabili, per cui io posso unire vari biglietti di treni ritardatari per comprarne uno nuovo, per cui sommare i vari indennizi. Io anche quando acquisterò online potrò tranquillamente pescare da questo pozzo, chiamiamolo così, e acquistare con lo sconto un ulteriore biglietto. Andiamo alle note dolenti di tutte queste novità e mi riferisco all'innalzamento della soglia del diritto all'indennità, cioè? Esattamente, allora nel passaggio con il nuovo anno, con le nuove regole, sono cambiate notevolmente la situazione. Allora, se prima con 25 minuti sugli intercity si aveva già diritto all'indennizzo del 50% del prezzo del biglietto, ora addirittura l'indennità di ritardo scatta dopo 60 minuti e l'indennizzo è sceso al 25%. Questo è appunto quello che dicevo prima, si sono adeguati ai livelli minimi richiesti dal regolamento europeo. Perché poi naturalmente ogni sistema, a seconda del paese considerato, può migliorare le condizioni praticate. Sì, sì, assolutamente. Cioè, il paese, ad esempio, facendo esempi veloci di paesi vicino a noi, Spagna, Francia, Germania, hanno tutti condizioni migliori, loro hanno integrato il regolamento europeo alle loro precedenti condizioni, ma senza peggiorarle.